All time rock and roll, bentornati. Bentornati a tutti. Subito lui. Cosa facciamo? E di cosa parliamo? Com'è? Di cosa parliamo? Un mafioso. Ha avuto occasione di sentire il nostro spot pubblicitario al carnevale di Foiano nei megafoni, in cui c'è il Mazzeo che impersonifica un mafioso, che a un certo punto dice la frase: di cosa parliamo? Diciamo il suo Benevento, le sue origini beneventane sono uscite fuori in quel di cosa parliamo. Di cosa parliamo? Da non confondere con Campobasso, come feci una volta, perché o con Napoli che si impettisce e diventa furioso. Tutto brutto. All time rock and roll, decima puntata yes. pazza. Sì, puntata oggi pazza. Parleremo di carnevale, esatto. Entreremo nel dettaglio, gireremo il coltello nella piaga, come solo noi sappiamo fare. Sì. Parleremo dei quattro cantieri, dei quattro carri, e metteremo comunque sia anche un po' di musica rock, la nostra classica certo, musica. Quella non manca mai. Diciamo che faremo una nostra... siamo proprio senza scaletta, abbiamo proprio zero, proprio puntata speciale sul carnevale, in cui faremo la nostra, diciamo, classifica personale. Sì, esatto, più o meno. I nostri pareri, parleremo di cosa pensiamo sul tema anche dei carri, molto importante secondo me. Esattamente. Cosa che tu, Luke, ne sai tutti a memoria, credo, perché ormai... Sì, ho una discreta passione. Sì, lo so. Non so se qualcuno se ne è mai accorto. No. Ho una certa passione per il carnevale e penso di... per caso. Scusi, come dice? Ieri ha vinto. La viola? Sì. No, 2-0. Sì. L'ho visto, ero lì. Che partita era? Lo sapete che io Coppa di calcio Italia. Sono proprio... Coppa Italia. Già la semifinale siamo arrivati. Sì, ma la finale c'è a maggio però. C'è a maggio. Come? Giocano d'anticipo. È tempo di riposarsi quei 5 mesi, 4. Poi tempo che ti scordi che c'hanno giocato la finale... E inizia la nuova Coppa Italia. Dice: Madonna, c'è la finale. Di cosa? E ha vinto contro? Matematicamente. No, ormai devo sapere, non è che... L'Udinese. Ah. 2-0. Vabbè, grazie. Comunque, non siamo qui per questo, altrimenti... Comunque, dicevamo che sei un grandissimo... Eravamo a lavorare in una radio a Firenze. Comunque sì, appassionato di carnevale oltre che della Fiorentina. Esatto, anche perché di solito in questo periodo, quest'anno no, ma te lo disse l'altra volta, nel tuo profilo di Facebook appare molto il Forza Rustici e un'altra cosa che non posso dire. Esattamente. Che è un'altra squadra di calcio che non tifi per lei, diciamo. No, quindi c'è o Forza Rustici o quell'altra cosa. Ma questo più o meno ha intervalli di 30 minuti. Per sdrammatizzare, esattamente. E commenti chiunque, tipo io commento magari la foto di, non so, di me, e sotto commento tuo, o Forza Rustici oppure l'altra cosa. Però vabbè, ok. David Bowie. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lift off. Space Oddity, David Bowie. Allora, è ufficiale? Sì, ufficiale. La nostra formazione è questa, quindi io, Patru, accanto a me Luke e i due tecnici. Sì, Biondo. Esatto, manca il nonno, no, Valerio. Sommerso dalle varie planimetrie, dalle varie misure, calcoli geometrici, non è con noi, purtroppo tecnico fuori Bindi, per lavoro. Tecnico Bindi, come commenta questa assenza di Valerio Nanno? Olè. Si sente che manca. Ignorante, ragazzi. Si sente. No, ci manca. No, dovete che tra di noi scherziamo sempre. Non vi spero tu ci stia ascoltando mentre stai disegnando varie case che cadranno, perché sei no, troppo dai, impegnato. Non facciamo di cattiva sei pubblicità. Sei impegnato ad ascoltare noi e sbaglierai i calcoli. È uno preciso sul lavoro, No, lui sì. No, sì, davvero. Uno ha degli orari ferrei, precisi. Infatti è lui amico ferrei, di ferro, tu te ne intendi. Amico infatti. Di ferro, Mazzeo. Amico di ferro, ferrei. Vabbè, dopo questa si può chiudere. Sì, andiamo via. Dunque, entriamo nel vivo. Sì, entriamo nel vivo di questa puntata, quindi andiamo, come detto, a spiegare i quattro carri, i quattro cantieri, le varie figure. Sì, dopo la prima domenica di Carnevale, che ha avuto un grande successo di presenze, si parla di oltre 5.000. E è stata diciamo un po' sfortunata all'inizio, perché fino alle 10 pioveva, però sì, comunque nel pomeriggio il tempo è diluviava, però non ha proprio aiutato il tempo, no. Però poi fortunatamente a mezzogiorno è iniziato il tutto, e è stata una bella domenica di carnevale, è uscito anche il sole. Beh sì, sì, quello sì, meno male, perché a un certo punto mi faceva caldo dopo le 4 e mezza. Io lo so perché ti faceva caldo. È inutile che tu mi guardi. Era emozionato e ha iniziato a correre per Fognano. Perché se avessi potuto farti un arzumiglio con la balenata, che se non sbaglio deriva dal latino. Sì, deriva dal latino, che sarebbe fotografia con il flash. Traduzione. Sì. Non c'è Nannotti, oggi traduco io. È giusto. Dai, entriamo. Allora. Parliamo. Beh, io direi di iniziare subito con il, diciamo, il tuo cantiere. Sì, quindi il rustici. Mio cantiere. Anzi, andiamo prima a spiegare proprio dall'inizio. Quali sono i cantieri? Allora, i cantieri sono rustici, sì, di colore bianco e blu. Uh-huh. Poi ci sono nottambuli di giallo, colore giallo e nero. Bravo, Masa. Giallo e nero. Poi giallo rosso. Gli azzurri. Ale. Di colore, quindi, per l'appunto? Non me lo ricordo. Verde acqua. No, colore azzurro, chiaramente. Come un mare. Che tra le altre cose, non volendo, adesso sono quattro cantieri. Noi siamo in quattro e ognuno di noi è di un cantiere differente. Perché esatto, tu sei di Rustici, esatto, io di Bombolo, il Masa Nottambuli e il Bindi degli Azzurri. No, il Bindi è di Bombolo, però oggi è degli Azzurri. Oggi abbiamo deciso. Faccia azzurri, aperitivi. Quindi, sì, andiamo a parlare di Rustici, dai, iniziamo subito con loro. Abbiamo dimenticato Bombolo, di colore bianco e rosso. Ah, sì. Non l'avevi detto? Che sono no, io, perché c'eravamo inabissati sul colore azzurro. Sul colore degli azzurri, che da ancora stanno facendo calcoli, algoritmi matematici per capire qual è il colore degli azzurri. Sì, esattamente. Comunque, va bene, iniziamo con il mio. Allora, il carro dei Rustici quest'anno ha voluto rappresentare, diciamo, un tema a magica, a risvolto socio-politico-economico italiano, tipicamente italiano. Infatti il carro si chiama Roma ed è, diciamo, in soldone, ve lo racconto brevemente. Il tema parla di coloro che chiunque vadano per conquistare Roma, per cambiare le cose a Roma, finisce inevitabilmente che tra luce e vino non solo non conquistano Roma, ma tutt'altro, sono loro che vengono conquistati da Roma e di conseguenza non riescono a cambiare le cose. E si fa riferimento, per l'appunto, a Annibale che partì con i suoi elefanti. Infatti la figura davanti a conquistare Roma. Sì, infatti la figura davanti è un grandissimo elefante, bellissimo. Sì, infatti il carro è completamente avvolto da un colosseo. No, sto scherzando. E Annibale fallì, per l'appunto, nel conquistare Roma, perché ne rimase ammaliato dopo che, oltretutto, la Chiesa ne ostacolò, diciamo, il suo successo. Okay. E diciamo è un po' raffigurato così, con un trimalcione come figura principale. Ok, questo era sempre che dal latino, trimalcione. Trimalcione è il personaggio tipico romano. Che era prima era un poveraccio, poi dopo è diventato un ricco, ignorante, avido. Diciamo, il riferimento è chiaro, ecco, al tema socio-politico italiano attuale. Ah, ok, bene. Ottima, bravo grazie, Luke, bravo. Grazie. Bravo Lucarone. E adesso i Genesis con Land of Confusion. Catch! ed erano i Genesis con Land of Confusion. E ritorniamo sempre qui, Old Time Rock and Roll, Radio F, e abbiamo appena parlato, il nostro Luca ci ha introdotto il carro dei rustici, che personalmente a me piace. Bellissimo. Colorato molto bene, molto bene, davvero. Grazie. Devo fare comunque sia un mio piccolo, secondo me un po' poche figure. Bello ma non vici. Bello, no. È bello ma non balla. Bello, comunque sia, avete diciamo il talento, diciamo così, di colorare veramente benissimo, sì, i carri. Per vincere il carnevale non servono tante figure, ne basta una e bella. Che è l'elefante. Secondo me, bello ma non vince, però mi sbaglierò. Staremo a vedere. Ricordiamo che sono dei pareri, nostri, non è che. Certo, se poi ognuno dice la sua. Se poi a casa qualcuno si dovesse sentire offeso, chiama il Nannotti Valerio e si rifà con lui, si sfoga. Ah, se studio, credo. Valerio. Se no, il numero. Esatto, altrimenti, no, naturalmente stiamo scherzando. Naturalmente al 64 8276 ci potete qualora qualcuno volesse fare qualche appunto o precisazione. Esatto. Allora commettessimo qualche errore di giudizio. Esatto, siamo aperti. Ok. E abbiamo parlato del carro dei rustici, come abbiamo appena detto. Abbiamo dato il nostro parere. Sì. Il prossimo carro quale sarà? Qual è? Il prossimo carro? Io andrei in ordine. Di porte proprio di cantieri. Oddio, sei iniziato dal mezzo. No, va bene. Va bene, dai, parliamo di bombolo. Ok, te sei di bombolo. Sì, adesso parliamo di sempre stato di bombolo. Il carro del cantiere bombolo ha voluto raffigurare il tema dei soldi. I soldi è visto come un mostro che porta l'uomo all'avidità, alla cattiveria, alla solitudine. E che come ti interrompo, che come ha detto il nostro amico, è un avaro. Non un avaro, è un avaro. E io lì per lì ho fatto un Alvaro. Anzi, lo saluto. Ciao Davide, ci sta anche ascoltando. Che è anche di bombolo, fra l'altro. Poi, sai, abbiamo davanti un avaro. E un avaro, ho pensato. Avaro. Non so. Dopo tanto lascia qualche accento. Sì, Davide. Un po'. Qualcuno in quella. Comunque vai, continua. Scusate. Comunque, praticamente il carro raffigura un vecchio. Un avaro, chiamato un avaro, un avaro senza accento, no, un avaro che stringe avidamente a sé i suoi soldi, però si è ridotto alla vecchiaia, alla solitudine, trascurandosi, insomma, una sorta di signor Scrooge, per chi lo conoscesse, della leggenda della novella, il fantasma del Natale passato, presente. Esatto, A Christmas Carol, quella, diciamo, un esempio lampante. Vero. Figura quella, secondo me, fatta in maniera egregia. Sì, credo una figura rende proprio l'idea. Sì, vero, sì. Mi piace colorata anche quella, davvero. Poi molto, però molto si bene. Sono un po' persi nel mezzo, ecco, diciamo. Sì, ma, come dicevi tu prima, poteva essere magari raffigurato in un altro modo questo mostro di soldi. Alla fine è una figura fatta di monete. Bellissima. La sua semplicità è meravigliosa. Uno dei carri più belli che io. È sbalorditivo per quanto è semplice. Forza Azzurri. Io lo so perché tu lo stai dicendo adesso. Un vale però. No, comunque, finiamo di raccontare il tema. Praticamente c'è questo mostro di soldi che però viene, diciamo, sconfitto, fra virgolette, dal varo. No, dal giovane. Ah. Dal giovane che rinuncia al fascino dei soldi e preferisce l'amore, preferisce, diciamo, la bella vita. No, bel tema. No, è un bel tema. Il tema è indiscutibilmente un certo, ottimo no. tema. Forse il migliore. Come tema, io penso favoloso. Secondo me la raffigurazione poteva essere, diciamo, svolta in una maniera un attimino un po' più particolare. Però comunque nulla la toglie il fatto che ci sia dietro un grande lavoro e sacrificio. Beh, certo, certo. Anch'io so di cosa si parla. Anche perché anche tu hai lavorato. Sì, ben 10 anni, adesso un po' tralasciato, però non è detto che non continui. Beh, e adesso andiamo avanti con All the Small Thing. Say it ain't so, I will not. Ed erano i Blink 182 con All the Small Things. E continuiamo, andiamo avanti con la nostra puntata e con i nostri, diciamo, racconti sul carnevale. Abbiamo presentato il carro dei rustici, poi abbiamo presentato il carro bellissimo di Bombolo, secondo me. Non perché sono di Bombolo, assolutamente che, no. Ricordiamo che li presentiamo in ordine di classifica. Sì. Dunque, sì, segnatevela. Sì. No, no, no, Bombolo secondo no, ho sbagliato. A parte che ho sbagliato. Ma Bombolo secondo non esiste. Cui verranno chiamati. Un pezzo proprio. Nel tuo locale fai la classifica dei carri. Sì, sì, sì. Ognuno appende una, così. Una burla. Cosa avevi messo al primo posto? Azzurri. No, no, ah sì, no. Azzurri, no, tipo sembra Bayern Monaco, mettesti una cosa così. Bayern Monaco. No, no, no, una cosa di Monaco che ci ho messo al primo posto. No, Valerio che l'ha fatta un po' naif. Azzurri ancora sta insistendo con questa cosa. No, per me vince l'Azzurri. Valerio l'ha fatta un po' naif, la classifica. Un po' naif, così. Sì, ha fatto primo, sì, secondo, pari merito, tutti e quattro. Ci ha messo tutto fuorché i carri di Foiano. Ah. Insomma, vabbè, ora non entriamo nel dettaglio. Porto Santo Spirito. Comunque, ritorniamo sul carro di Bombolo, che secondo me è fatto, soprattutto la figura davanti è fatta davvero davanti, davvero bene. Davanti è bellissimo, sia come espressione. Ricordiamo, lui si chiama la figura davanti Alvaro. Alvaro. Detto Avaro da detto Davide. Avaro, o meglio, ritradotto un avaro. E andiamo avanti con il terzo dei quattro carri. Sì. E parliamo di, dici un po'? Nottamboli. Il meglio, come dice il Mazzeo. Beh, sì, da sì, sì, Nottamboli. Bello, dalla tre quarti. Bello, non quanto l'Azzurri, bello. Ancora. Carlo Nottamboli quest'anno, no, ha voluto raffigurare Antonio Conte con il suo tupé. Forse quello non mi piace. Il gatto il tupé. Sopra, sì. Il tupé. No, vabbè, perché il VAC è della Juve. Allora ha voluto fare il parrucchino al gorilla. Così, capito, riprende. Ricordiamo che il personaggio del cantiere di Nottamboli. Sì, ciao Giancarlo, ci sto ascoltando. Domani se mi trova Mamazza. Sicuro. Tipo del loro carro. No, allora, il loro carro parla praticamente della natura che si ribella all'uomo e a tutti ai soprusi che causa l'uomo verso la natura. Ultimamente è venuto fuori il fatto della terra dei fuochi, ma comunque è sempre il tema attuale, l'inquinamento, certo, e tutto ciò che ne consegue. Certo. La distruzione degli alberi, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente ci sono due centauri davanti. Centauri, bellissimo, guerrieri che raffigurano gli umani che distruggono, sì, quelli mi piacciono, i centauri sono, sì, belli, quelli sono belli, quelli sono belli. Come? Beh, no, è vero, no, ah, no, non mi ricordo, no, vabbè, però sono fatti veramente bene, sono fatti bene, sono volutamente senza volto, ovvero hanno davanti, diciamo, la maschera, sì, cioè, vabbè, sì, l'elmetto da guerra e basta. E le altre figure? In mezzo c'è un gorilla enorme con il parrucchino. Che insomma, quando si muove è bello, quello è bello. Sì, no, quello è veramente sembra scena, vivo. Scena. Sembra vivo, sì, quello è bello. I movimenti li hanno azzeccati molto bene. Arriva terzo, però è bello. No. Tanto lo sappiamo. Quando una cosa è bella va detta. Sì, sì, no. Secondo, ricordiamo che sono secondo tutti pareri personali nostri, non è che siamo qui assolutamente, no, ma secondo le buone, quasi primo. Secondo dal fondo è buono. Dai, il fondo. Primo l'Azzurri. Dai. Bindi, aspetta, dopo è arrivato il momento, aspetta. Un attimo. Assete, diciamo. Assete, senti. Anche te, ma sei sete. C'ho un po' derante là, mi dicono. Guarda, dopo, vai, ok, dopo quando parliamo degli Azzurri. Allora, vai, poi dopo, all'ultimo, faremo la traduzione. Prima la foto con l'arzumiglio, ora la rante, la sete. La rante. Vabbè, sì, vai. Un altro disco. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Beto moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he said, said better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Out of town, Ruben Carlo and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Questo era Bob Dylan con Forza la sua Azzurria. C'è da finire di parlare dei Nottamboli. Stai calma, Binda. Per favore. Stiamo calmi. Non ti agitare. Dai. Ancora è presto, hai tutto il tempo per bere. Stai calmo. Comunque, dicevamo, il Cano Nottamboli, tutto sommato, non è brutto, però non è invincibile. Ecco, diciamo così. A mio modesto avviso. Si vede che siete parte, eh. Si sente, ma, anzi. Ma voi avete infamato i rustici prima. Non ho capito di che cantiere. Dovrebbe essere rustici. Mi sembra. Non lo so, basta entrare nel suo profilo e il codice fiscale mio inizia con RST. E poi viola. Buoni. Comunque dicevamo, il caro termina con Madre Natura. Bellissimo. Quella è bella, natura bella. Sì. Che ha rischiato anche lei di lasciarci una mano quando passava in piazza come davanti tutti come tutti, sì. Tutti. Anche perché veramente lì, ha detto bene un ragazzo che lei dice, veramente li fate con il calibro. Poi no, cioè, poi Nottamboli a quella casa gli vogliono un bene, non gli buttano giù una pertiana. Sì, ma la vecchia, dai, la devo cambiare. Io la telecamera di sicurezza che c'è in piazza l'ho vista male un paio ecco, di volte. Quella la spiccassero. L'ho vista male un paio di volte. Come la spiccassero? La spiccassero. Comunque, il nome del carro dei Nottamboli, allora, sì, eh? Allora, ripiloghiamo i nomi. I rustici con Roma. A magica, a magica. E Bombolo invece con il dio Quartino. Scusate, il dio Quattrino. Quattrino. Sì, ricordiamo, salutiamo Alvaro davanti alla figura. Al saluto Davide. No, poi sai, abbiamo davanti un avaro. Dai. No, avatar. No, che un'altra. Un'altra. Vabbè. E Nottamboli con Dea Ferita, appunto riferendosi a Madre Natura. Certo. Adesso parliamo, per la felicità del Bindi, dell'ultimo cantiere. Esatto. Dell'ultimo, nel senso di oggi. Chiamato, l'ultimo ad essere chiamato. No. Grandissimo. Numero uno. Ma da quando è che sei Dea Azzurra? Ma così mi è presa l'improvviso. È una passione, eh? È spontanea, è nata così. È l'azzurro, è l'azzurro. Hanno capito che finalmente l'azzurro è il colore degli azzurri. Ciao, è un passo avanti. Era difficile. Sono arrivati, sono arrivati. Comunque, il caro degli azzurri parla praticamente dell'uomo che bello, si... Bello, bello, bello. Secondo me vince. Già c'è dell'uomo. Senti come... Già, una persona... Cioè, non è che dice c'è un elefante. C'è un uomo. È un uomo. C'è un uomo. Non è le orecchie a sventola. E poi che normale. Uomo. Che uomo, perché Odino, il babbo di Thor. Sì, è quello, sì. Sì. Comunque parla dell'uomo che ritrova, diciamo, il coraggio. Senti, per già affrontare... la seconda parola, ritrova. Coraggio. Uomo e coraggio. Coraggio. Coraggio. Cioè, cioè, l'elefante dove ce l'ha il coraggio? No, è un topo. Cioè, due parole, cioè, uomo e coraggio. Stiamo scherzando sul carro di Ruttic, ovviamente. No, sono giusto. Lo facciamo per scherzare, tranquillo. Su non è che... Dateci la coppa, dai. Comunque, sai, cioè, è giusto che spariate a zero anche su Ruttic. Io sparerò a zero la sera del 9 marzo. Vai, vai. Comunque, dicevamo, il carro degli azzurri parla dell'uomo che deve, che, cioè che deve, che ritrova il coraggio per affrontare i suoi problemi, per riscattarsi. Scusate, devo asciugarmi le lacrime perché davvero non riescono. Così facendo riesce ad osare per cavalcare i suoi sogni, ovvero un cavallo, che è il cavallo da guerra di Odino, che sconfigge, non è un elefante, che sconfigge la Medusa. Che si chiama Alvaro anche il cavallo, se non sbaglio. No. No. No. No. Come si chiama? No, come si chiama? Francesco. Ah. Dai, oh. Va bene. Detto il micio. Ammazzato. Usucci. Mettiamo la canzone. Comunque, continuiamo. Continuiamo, andiamo che avanti. Che praticamente sconfigge la Medusa con i suoi serpenti tentatori. E però, devo fare un appunto. Cara Giuri, bello, perché a me piace. Spacciato. Però, cioè, è come bere una Coca-Cola con una bistecca al sangue. Hanno mischiato due mitologie, quella greca, sì, e quella nordica. La Medusa, vabbè, è greca, Odino è nordico. Vabbè, sì, sono ma due non cose c'è, che non si incontrano mai nella vita. Le cose mitiche sono anche più belle. Sì. Vero, vero. Cioè, vero. Cioè, un'insalata mista più buona di un'insalata vera. Bravo, bravo Mazzello. È una mia semplice, una mia semplice impressione. Però vero. Il carro a me piace. No. A me piace, bello. Io ci avrei messo quando anche guarda, un Cerbero davanti, una cosa del genere. Quando guardavi Dragon Ball, i personaggi forti erano dati dalle fusioni, capito? Cioè, ma che cosa? Ma, manda il disco, manda il disco. Vai, vai, vai, vai. Fall. Oh, and I look back now. The sun was in the Ryan Adams, Summer of 69. E siamo sempre qui, Old Time Rock and Roll, Radio F. E siamo arrivati a parlare dell'ultimo cantiere, ultimo non per importanza. No, no, ultimo, ultimo. No, no, vabbè, no, dai, ultimo perché l'ultimo abbiamo fatto. No, vabbè. L'ultimo in saranno base... i primi. Senti. L'ultimo ma in base. Non li ho mai visti così veramente. Alle descrizioni che abbiamo fatto. Abbiamo già le nella tutte. Finale di Cobo. Niente. Certo, ragazzi, cosa non fa un aperitivo offerto? Non so di cosa stai parlando. Io non vi conosco. Mi piace. Comunque, dai, ritorniamo un attimo al Caro degli Azzurri. Sì. Che no, ora a parte scherzi, a me piace. E sinceramente, secondo me può essere quello che se la vede, se la vede con i rustici. Con il bombolo, volevi dire. Con bombolo. Mai nella vita. Mai. Prossimo anno forse, però quest'anno secondo me il 9 marzo vi... 9 marzo vi aspettino a tutti. Da capaccioni vero verso. Ma per favore, vediamo. Comunque, povero. Le altre figure del carro quali sono? Allora, la Medusa in fondo in basso. Ok, che ricordiamo che no, non secondo te, ma cioè è vero che comunque sia incrociano due ma mitologie. Questa è la mia opinione personale. Poi sì, come hai detto te, c'è chi neanche ci fa caso oppure sì. dà veramente fastidio. Può essere che la cosa non piaccia oppure magari uno non ci fa caso o comunque può darsi che abbia sia piaciuto il fatto di aver mischiato le due cose. Uno non è che per forza deve fare le cose diciamo secondo sì, gli standard, se no insomma cioè alla fine è un carro, dai, gusto. Non sì, è come questo arriverà prima. No. Dato tutto ruoterà secondo me intorno al critico d'arte. Sì. Critico d'arte è sempre quello che è fa... quello con il, l'ho visto quello con il sigaro che prendeva gli appunti sopra la giuria, l'ho visto. Sì, però se sai dove abita. Se lo dico io dopo in privato. Sto scherzando. C'è una busta colorata. Sto scritto Roma. Ma non parliamo di giuria. Non sapete no! dove viene la giuria? Da Roma, scommetto. Da Roma viene. Stiamo scherzando, ovviamente. Era la mia classifica, dai. Sotto quando passa il calendario, anzi, da domani mi arriveranno minacce di morte. No, a casa, forza lupi! Sono belli tutti. No, io scherzi. Secondo me, dico davvero come la penso. Vai. In generale, cioè, sono tutti belli. Non c'è un carro che l'ho visto che veramente mi ha fatto rimanere sì, a bocca aperta. Superiore a un altro. Che ho detto, diciamo complimenti. Che per un verso, cioè, per un altro si equivalgono. Esatto, esattamente. O per figure, o per movimenti, o per colore. Sono veramente. O per Alvaro, ricordo. Ma a me piacciono davvero tutti. Non saprei davvero tirare giù una classifica, dire sì, che okay, sono certo il primo è questo. La certezza non esiste. Certo, uno va in base a diciamo istinti soggettivi. Ecco, variano da persona a persona. Certo. Comunque. Andiamo avanti. Io direi passiamo alla prossima song. Sì, esatto, andiamo avanti. I serpenti degli azzurri. Attenzione, cosa perché? Abbiamo? Ah, vabbè, parla. Vuoi dire una cosa? Sono non belli, serpenti. No, basta. Ma in generale, diciamo, se provi delle figure, non so. Hai passato ai serpenti? Ti dovrei quello disco? Ti dovrei offrire più aperitivi. Ma senti, non ti sento convinto, ma senti? grande Breeze. I'm going down to the well tonight, and I'm gonna drink till I get my fill. And I hope when I get old I don't sit around thinking about it, but I probably will. Yeah, just sitting back trying to recapture a little of the gloria. Well, the time slips away and leaves you with nothing, mister, but boring stories of glory days. Yeah, I'll pass you by, glory days, in the wind of a young girl's eye. Glory days, glory days. Yeah, I'll pass you by, glory days, in the wind of a young girl's eye. Glory days, glory days. Well, all right. Oh, yeah. Well, all right. Come on now. Well, all right. Oh, yeah. All right. Come on now. Woo. Bruce Springsteen con Glory Days, giorni di gloria che verranno per il carro, canzone il cantiere. Canzone dedicata al cantiere dei rustici. No, ma no, no. È sbagliato. Ricordiamo che sono tutti pareri nostri, sono delle classifiche stilate da noi, ma sono pareri nostri. Fermo. Che avete detto? No ragazzi, che è successo? Ho detto? È arrivato Marco Giramondi, vicepresidente. Oh, un saluto. Ma no, ragazzi, vi salutiamo. No, non mi pare molto contento. Che avete offeso per caso il gorilla di Nottambuli? No, no, no, che no, Antonio no, Ponte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, io ho detto stiamo bello. Scherzando, no, no, no, scherzando. Assolutamente. È venuto a trovarci, ci ha fatto un saluto. Già, lo salutiamo. Volante, ci ha fatto anche una foto. Lo ringraziamo. E salutiamo Marco Giramondi. Allora, continuiamo con il carnevale. Allora, abbiamo spiegato i carri, abbiamo detto i titoli, abbiamo detto pregi e difetti, secondo noi, nella nostra totale ignoranza, sui carri. E continuiamo a dire che, visto che siamo quasi in chiusura, che la prossima domenica ci sarà la Scoriandolata. È vero. Che è un evento fantastico. Diciamo è un flash mob a tutti gli effetti. Sì, è un flash mob, sì. Inizierà alle 16, se non erro. Sì. E in piazza Vittorio Emanuele, come l'anno scorso, ci sarà un tripudio di coriandoli. Un'esplosione. Una bufera di coriandoli. Io ero nel mezzo. Portate gli ombrelli. L'anno passato l'hanno fatto. Levatevi gli occhiali. Hanno fatto la stessa cosa l'anno passato. Iniziate a prendere a capate Davide. Ho visto gente in mezzo alla folla con la mano sopra il bicchiere per non fare. Fantastico. Sì, io ti poi giuro, ha fallito miseramente. Sì, perché entravano ovunque gli occhiali. Col bicchiere nuovo. Sì, gli occhiali, ma che dici? Gli occhiali. Coriandoli. No, sì, se non tiriamo gli occhiali. Gli occhiali tiriamo i coriandoli. No, io me li levo. Attenzione perché dopo la mocio cicletta. La mocio cicletta. Il Luke tirerà i suoi personali occhiali durante questo flash mob che ci sarà domenica prossima, quindi il 16. Però vabbè, ok, quindi ci sarà invece che la scoriandolata, l'occhialata. L'occhialata, esatto, esattamente. Comunque, a parte scherzi, ricordiamo gli appuntamenti per domenica al Carnevale di Foiano. Esatto. Ricordiamo che il Carnevale domenica, sfilate, eventi, musica, cioè ci sarà eventi gastronomici, esatto. Negozi aperti, esatto, giochi aperti, per bambini, divertimenti, tutto, bambini, tutto. Musica, vincono rustici. No, vedo messaggi subliminari. Sotto un bellissimo cielo azzurro. No! Dai! Veramente siete una cosa, guarda. Ricordiamo comunque anche che le date, quindi il carnevale è iniziato domenica. Sì, esatto, domenica è stata la prima. Esatto, uscita. Domenica 9 e durerà e proseguirà per tutte le domeniche di febbraio. Esatto. E finirà domenica 9 marzo. Esattamente, tempo permettendo. Ricordiamo che e nella terza e la quarta, se non erro, il carnevale inizierà a mezzogiorno. Ah, dunque per chi volesse, certo, venire, sì, prima, sì, anche, sì, di mattina è un grande evento. Quindi le sfilate non inizieranno alle 15, e ma bensì ci sarà per tutto il giorno carri, musica, insomma, esatto, sfilate per tutto il paese, tutto quello che ho detto prima. Perfetto. Sì, anche quella, Bindi, esatto. Sì. I nostri amici non hanno potuto vedere il gesto, però no, sì. C'è tanto divertimento. Sì, tanto divertimento. Mandiamo un altro disco, allora. Ed era l'ultimo disco di oggi e siamo giunti alla conclusione di questa puntata, la puntata dove vi abbiamo spiegato, raccontato il carnevale di Fognano, il carnevale più vecchio d'Italia, giusto Luke? Esatto. Esatto. 1539. Documenti ufficiali. Però tanto di cappello. Vi abbiamo comunque detto, spiegato, raccontato i quattro cantieri, i quattro carri che si sono sfilati per questa edizione, che si sono che hanno sfilato domenica. Diciamo, quindi, che sono tre carri che sfidano uno, però dai. Eccolo, guarda, eccolo. Non c'è partita, infatti. Manca solo la coppa. Non c'è trippa per gatti. Voglio fare una cosa. Okay. Dite la vostra classifica, avanti. Vinto. Azzurri. Perfetto. Masa. Azzurri, rustici. Azzurri di nuovo. Bombolo. Luca? Devi specificare però, perché no, dai. Ordine di chiamata o classifica? Classifica dal primo all'ultimo. Primo all'ultimo. Primo, sì, azzurri, sì, sì. Secondo rustici, terzo ottambolo, quarto bombolo. Per me primo bombolo, secondo rustici, terzo azzurri, quarto nottamboli. bevuto per venire qui. Anzi, correggo un attimo la mia. Azzurri, rustici. Giusto il gusto di essere quarto. Di allora, dico la mia. Ecco. Attenzione. Bayern Monaco. Tecnico, per favore. No. Primi rustici. Basta. Tanto basta. Gli altri chiudono la finestra, vanno via. No, a parte scherzi, una classifica ben precisa non so farla. Anche se mi sono messo lì con mio fratello, la Sofia, ho già fatto tutti gli schemi, schemettini, calcoli approssimativi. Sta a vedere che ci ho chiappato io. Che... mi viene sempre comunque o noi o gli azzurri per il primo posto. O così, già a caso. No, però facendo una classifica obiettivo, io no, chiaro, ti ho regalato anche qualche punto, cioè, certo, quando c'è da essere onesti, sono il primo. Bombolo dove l'hai messo? Ultimo. Dai, vabbè, però poi gli ho dato a un certo punto gli ho dato un terzo, mi sentivo ispirato, gli ho dato un terzo. Beh, all'altezza del Barberino gli ha dato un terzo. Col pullman. No, al mezzo litro di birra a digiuno gli ho dato un terzo, sì, è venuto fuori così. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Ricordiamo la nostra pagina Facebook Old Time Rock and Roll. Vi ricordiamo l'appuntamento per mercoledì prossimo, dove torneremo a parlare sempre della storia del rock, i compleanni, esatto, e le varie citazioni. Noi vi aspettiamo mercoledì prossimo e soprattutto vi aspettiamo anche al carnevale, alla prossima domenica di carnevale. Esatto. Ricordiamo l'appuntamento di stasera, sì, alle 22 con DJ Claudio, con sì, il suo Sugar Night imperdibile. Yep. E domani sera Piazza Alta, già, simpaticissima trasmissione. Sì. Dai nostri colleghi che parleranno anche loro di carnevale, aneddoti di Foiano. Esatto. Seguitelo perché è molto sì, davvero, davvero bravi. Noi quindi vi aspettiamo con Old Time Rock and Roll. Io sono il Patro, accanto a me Luke. Tiro azzurri. Dai, azzurri anch'io. Erano i due tecnici. Vi aspettiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 19 alle 20. E vi aspettiamo anche al carnevale. Esatto. Forza Luz. Ciao. Azzurri.